Ciao, sono Alessandro Verre, benvenuti in Lucania e benvenuto a Gironimo in Lucania. Ale, eccoci qua, amiche e amici del ciclismo, del Giro d'Italia, dei contrattempi. Benvenuti a un podcast in versione tardo notturna, verosimilmente. Non la sappiamo ancora esattamente quando uscirà questo podcast, ma uscirà in tarda serata perché per via di un contrattempo siamo alla replica, ma siamo pronti, come se nulla fosse. Eccoci qui, benvenuti alla nuova puntata di Gironimo, il podcast di Al Vento dedicato al Giro d'Italia 2023 in collaborazione con Bidon, ovvero me, Filippo Cauz. Io, Leonardo Piccione, scusate, stavo facendo un calcolo in tutto questo, perché questa sarebbe la quarta puntata, ma sarebbe anche la quinta, inclusa la puntata zero, ma sarebbe anche la sesta, visto che questa la stiamo registrando per la seconda volta. E io sono Michele Pelacci, di solito con la matematica non mi esercito, ecco. E Michele fai Pelacci bene. che è al posto di guida perché siamo seduti all'interno del furgone di Al Vento, non siamo all'interno di una delle ammiraglie di Shimano con cui ci muoviamo ogni tanto durante il Giro d'Italia, visto che questo podcast è realizzato in collaborazione con Shimano, e siamo in un parcheggio. Sì, in un parcheggio pubblico a Bagnoli Irpino, che è famosa per il tartufo, ma anche da oggi anche per aver ospitato la quarta puntata di Gironimo 2023. Ma direi di andare subito a commentare la giornata di oggi. Giornata bagnata, ha piovuto sul percorso, giornata in cui sarebbero tornati utili gli asciugascarpe di Johnny Milan, di cui ci aveva parlato qualche giorno fa, che non ho ancora capito bene cosa siano, però sarebbero serviti. La famosa plastica che si autoriscalda, no? Autocombustione, forse, della plastica. Forse qualcosa di questo tipo. Le temperature si sono un pochino abbassate. A Bagnoli Irpino, sul corso principale del paese, io ho intravisto degli alberi di Natale addobbati con le coccarde rosa. Non so se avete anche voi notato gli alberi di Natale a Bagnoli Irpino Sì, oggi. molto belli, molto caratteristici, chissà, di Bagnoli Irpino, un posto così, con un'atmosfera un po' surreale, forse, quando siamo entrati. Ah, un bellissimo paese, forse voleva essere un auspicio o un'introduzione alla nuova maglia rosa che viene da molto, dal nord dell'Europa, della Norvegia, quindi un posto dove la neve e il freddo sono abbastanza di casa. Ma andiamo per passi e passiamo a raccontare in breve, Michele, cosa è stata questa quarta tappa del giro. Ha avuto un inizio molto movimentato questa tappa, con un Ben Healy tra le colline lucane molto attivo. Prova e riprova ad andare in fuga e porta con sé vari drappelli di corridori. Vince i 18 punti del primo GPM Thibaut Pinot, ma solo dentro i 100 km dall'arrivo si forma il gruppo di 7 buono. Sono Skuins, Conci, Barguil, Leknessund, Paré-Peintre e Gebrezhabié con Albanese. Il distacco dei 7 davanti arriva fino a 5 e oltre minuti, quando si avvicina alla salita finale. Remco, che già era rimasto solo con Van Wilder sul primissimo GPM, è tutto solo verso Lago Laceno. Nel tratto più duro della ascesa, Nicola Conci tenta l'allungo, Barguil si stacca, Skuins mette il rapportone e prova il contropiede. Paré-Peintre e Leknessund vanno via e scollinano per primi, mentre lei, Ineos, si incarica di guidare il gruppo dei migliori. Lo sprint a due davanti è vinto da Paré-Peintre, ma Leknessund veste la maglia rosa. Corretto, tutto corretto, mi sembra. Aurélien Paré-Peintre, che alcuni traduttori automatici rendono come Aureliano Pittore Murale, che mi sembra anche un buon nome per chiamarlo. Non l'ho pronosticato, e questa è la grande notizia di oggi. Però, c'è un però, ieri mattina eravamo in ascensore insieme in albergo, quindi non so se significa qualcosa questo. Aurélien Paré-Peintre, che non va confuso con suo fratello Valentin Paré-Peintre, perché bisogna sempre ricordare che questo Giro d'Italia ce ne sono due. Michele Pelacci li ha battezzati i due fenomeni alla tappa zero di questo Giro d'Italia. Aurélien è il maggiore, per cui possiamo definirlo il pennello grande. Sì, in qualche modo sì. E il maggiore è nato nel 1996. È già stato una volta quindicesimo al Tour de France e una volta sedicesimo al Giro, quindi è un corridore di sostanza, è un corridore con un discreto spunto veloce. Infatti non c'è stata storia in questo sprint, in parte perché Paré-Peintre è più veloce, in parte o forse soprattutto perché Leknessund era già soddisfatto della quasi certezza a quel punto che già aveva di vestire, di essere la nuova maglia rosa. Ma prima di andare a conoscere un po' meglio questi due protagonisti, leggiamo l'ordine di arrivo di questa tappa completo. No, non esattamente completo, leggiamo almeno i primi 10 o 12. Ha vinto Aurélien Paré-Peintre, secondo Andreas Leknessund, terzo a 57 secondi Tom Squins, con Vincenzo Albanese quarto per il secondo giorno consecutivo. A seguire Nicola Conci e Ghebreyesabir, che è arrivato sesto, e poi settimo a regolare la volata del gruppetto dei migliori, Koen Bouwman della Jumbo-Visma, poi Damiano Caruso, Eddie Dunbar, Alexander Vlasov a chiudere la top 10, e attenzione, voglio citare l'undicesimo e il dodicesimo, perché corrispondono ai nomi di Domenico Pozzovivo, undicesimo, e Matthew Riccitello, dodicesimo. Quindi entrambi hanno fatto questo piccolo trenino. Trenino della Israel. Sì. Non so chi ha tirato chi per la volata. Chi ha tirato chi? Pozzovivo? Se Pozzovivo è arrivato davanti, se vogliamo vederla come una volata, sarà sto Riccitello a tirarla. Oppure hanno deciso che sono uni e bini e non trini e hanno fatto una volata insieme, uno a ruota dell'altro. A proposito di bini, se ricordate, l'anno scorso Pozzovivo tirò una volata a Binyam Girmay sul traguardo di Iesi. La tirò Pozzovivo? Sì, ti ricordi? Esatto. Intermarché, il treno totalmente rimosso era questo fatto, treno, ma era nel treno di Girmay, è corretto. Sappiamo che Domenico Pozzovivo, di cui si parla nel nostro podcast, non so se ve ne siete accorti, ve ne accorgerete anche oggi, sappiamo che quando raggiungerà, diciamo, la seconda fase della sua carriera, la maturità, potrebbe diventare un ottimo ultimo uomo, quindi. Sì, quando sarà più maturo, hai detto bene. Ma qualcos'altro sul nostro amico pittore. Abbiamo detto che è un francese, un corridore francese che parla inglese. L'abbiamo scoperto in conferenza stampa. Non è una cosa molto frequente, una circostanza che si ripete spesso. I corridori francesi tendono a parlare in francese soltanto. Era venuto al Giro soprattutto per provare a fare classifica generale. Ha vinto una tappa ed è comunque in classifica generale, perché non è lontano dalla maglia rosa di Leknessund a solo 30 secondi di ritardo. Sulla sua scelta tattica nel finale, perché nel finale sono rimasti in due, come ha detto Michele nel riassunto, si sono guardati a un certo punto, forse Leknessund ha fatto finta di pescare qualcosa o realmente si è messo qualcosa in tasca per non dare il cambio a Paré-Peintre, però andava bene entrambi questo finale, uno la tappa, uno la maglia. Paré-Peintre ha detto: io ho fatto l'unica cosa che dovevo fare, seguire Leknessund sull'ultima salita verso Colle Molel, perché era il più forte. Chissà chi ha seguito qui invece nella discesa dal primo GPM, perché è lì che si è formata la fuga buona, la fuga che per tanti chilometri non ha saputo prendere il largo, anche grazie alla Quick Step, che probabilmente i gruppi con i corridori più forti non li ha fatti andare via, ha selezionato il tipo di fuga che voleva lasciare andare. Una volta che sono lasciati, che è partita questa fuga in discesa, appunto, l'ha fatto perché la strada era un po' scivolosa, un po' bagnata. Noi abbiamo preso un po' di pioggia anche stamattina a Venosa e questi sette hanno preso vantaggio e sono arrivati ad arrivo bello quando arriva la fuga. Però se posso fare una critica, diciamo, alla tappa di oggi, io nel complesso, insomma, l'ho trovata un po' deludente. I fuggitivi arrivati non sono di primissimo livello, secondo me. Basti pensare che dei sette, l'unico che aveva vinto tappe in un Grand Tour finora era Warren Barguil. Warren Barguil, che però era quello con meno gamba oggi, tant'è che è stato il primo a staccarsi. No, mi spiace per la tua delusione, Michele. Invece, secondo me, queste sono le tappe da fuga, quelle vere. E noi eravamo in viaggio, forse per questo non ce la siamo goduta, ma oggi ci sono stati 80-90 km di battaglia in gruppo per prendere la fuga ed è un momento veramente così esaltante delle grandi corse a tappe. Sono contento che ci sia stato, mi dispiace non averlo vissuto, non averlo visto così direttamente, ma si è selezionata una fuga che forse era quella che voleva la Quickstep, forse era quella che voleva la Jumbo, più probabilmente era quella che non voleva nessuno. Perché a un certo punto, quando si va avanti così tanto a sgomitare, ad attaccare, contrattaccare, a un certo punto la fuga va via anche un po' per consunzione. Sì, è vero, è così. E alla fine non so se Remco sia più felice di aver ottenuto l'obiettivo dichiarato ormai diversi giorni fa di perdere la maglia rosa alla quarta tappa, o preoccupato perché la sua squadra effettivamente oggi si è sciolta come neve al sole. Sole che non c'era, però è quello neve che è successo. Nemmeno. Neve nemmeno, nonostante gli alberi di Natale. Però quello che è successo è che la Soudal ha dato segnali preoccupanti, visto che ha lasciato il proprio capitano solo per lunghi tratti della tappa, soprattutto in salita. Quindi non so, Remco ha raggiunto l'obiettivo, la maglia resta a portata di mano, perché vado a leggere la classifica generale e l'Eknesund, la nuova maglia rosa, ha soltanto 28 secondi di vantaggio su Evenepoel e 30 sul già citato Aurelien Paré-Peintre. A seguire Joao Almeida, quinto, e Primoz Roglic a 1 minuto e 12 dall'Eknesund, poi Geraint Thomas, Alexander Vlasov, Tom Skuins, che fa il suo ingresso nella top 10, e chiudono le prime 10 posizioni Theo Gegenhardt e Jay Vine. I secondi di distacco tra i grandi favoriti non sono cambiati, quindi Evenepoel ha sempre i suoi 32 secondi su Almeida, 44 su Roglic e 1 minuto 02 su Gegenhardt. Ancora una volta è andato male tra gli uomini di classifica OX Brandon McNulty, o McNulty come dicono gli spagnoli, che è ufficialmente uscito di classifica. A questo punto chissà se tornerà davvero utile per i suoi capitani della UAE Emirates. Ma abbiamo una nuova maglia rosa e quindi conosciamola un po' meglio. È la prima maglia rosa nella storia del Giro d'Italia a essere nato sopra il circolo polare artico. Sì, e ne ha parlato in conferenza stampa, ha parlato del fatto che ogni tanto gli piace andare nella sua Tromso, dove è nato, e girare con la bici anche quando c'è la neve. Forse è una fat bike, quella con le gomme, no? Larghe più o meno quanto il palmo di una mano. Non lo so, lui ha parlato di questa winter bike con cui lui va in giro nella neve con le renne, nel senso lui pedala nella neve tra le montagne del nord della Norvegia e ci sono tutte le renne intorno. È una bella immagine, se vogliamo, per questa nuova maglia rosa. Praticamente Babbo Natale. Sì, potremmo anche ribattezzarlo così, anche no, se no, in realtà no, un soprannome ce l'ha. Sì. Ha un soprannome che è The Dog, il cane. E gli è stato chiesto anche questo e lui non ha voluto rispondere, si è imbarazzato tantissimo, ha detto come unica ragione I am the dog. Invece sì, le ragioni sono note, più o meno. No, le ragioni non sono note, però lui si è imbarazzato come se fosse un segreto svelato da qualcuno. In realtà poi, facendo una piccola ricerca molto veloce, è venuto fuori che questo nickname è presentato, offerto e raccontato dal sito ufficiale della DSM, che è la sua squadra, dove c'è una scheda intera per presentare Andreas Eknesund, che adesso vado a leggervi. Sporting Hero, quindi eroe dello sport, Romain Bardet, che è anche ovviamente suo capitano nella DSM. Piatto preferito, hamburger. Poi attenzione al programma TV preferito. Il programma TV preferito di Andreas Eknesund sono i reality show norvegesi. Belli. Ne conosci qualcuno? Ma a me piace un sacco quello del caminetto. Non so se... che in Norvegia fanno vedere... C'è un canale che trasmette per 6 ore il caminetto che scoppietta con il fuoco che va. È un'immagine molto Twin Peaks, sbaglio? Ma non lo so, non ne ho idea, sono passati 20 anni da quando ho visto Twin Peaks, non mi ricordo se c'erano i caminetti. Forse sì, ma io non credo, che non sono sicuro sia un reality show. Beh, più reale di così, a meno che non siano quegli orribili nuovi caminetti che mettono nei ristoranti cinesi, che sembra un caminetto ma in realtà è una proiezione, ma secondo me in Norvegia ci sanno fare quei caminetti, riprendono quelli veri, e secondo me questo è un reality show e a me piace. E ci sanno fare anche, o almeno l'Eknesund ci sa fare, con la giocoleria, perché tra i suoi talenti nascosti, secondo la scheda del sito della DSM, c'è il diavolo, che è quella specie di clessidra che si tiene in equilibrio con un filo, no? Allora, sono due bastoni con un cordino e su questo cordino si tiene in movimento e si può anche lanciare in aria, fare numerose evoluzioni con questo oggetto di plastica che ha un po' la forma di una clessidra, se vogliamo. Che roba analogica! Questi giovani, secondo me, potrebbero fare un po' più di PlayStation, un po' più ore davanti a uno schermo. Beh, soprattutto se possono guardare i caminetti che che scoppiettano, per cui sì, in effetti forse dobbiamo dire a Leknes Sund: lascia stare il diavolo e mettiti davanti alla televisione. Ma no, poverino Leknes Sund, 99, classe 99, ragazzo molto giovane, ha vinto l'Arctic Race ovviamente l'anno scorso, la sua corsa preferita, è arrivato 28esimo al Tour in classifica generale e fa ciclismo perché in tutti gli altri sport faceva schifo. Attento, quindi molto, una ragione più che valida. Hai fatto bene a citare le altre vittorie di Leknes Sund finora, che oggi non ha vinto, però come se l'avesse fatto un po', no? Perché oltre all'Arctic Nord Race classifica generale, ha vinto due titoli a cronometro norvegesi e due tappe, una sempre alla corsa nordica della Norvegia, chiamiamola così, e una Tour de Suisse, sempre dalla fuga. Per cui è uno che è bravo ad andare in fuga, e oggi ha dimostrato. E questo rende proprio merito e va a vantaggio della tesi secondo cui era una bella fuga quella di oggi, che è una tesi che io sostengo in questa puntata. Ma era una bella fuga secondo me anche perché non ha preso tutto quel vantaggio e quindi ha scombinato un po', cioè la classifica generale non è stata stravolta, è stata scombinata, mischiata, e questo ci permette anche nei prossimi giorni di divertirci, perché Remco è lì, ma ci sono lì anche gli altri fuggitivi, sono tutti ancora vicini, ci arrivano a breve tappe agitate e in tanti possono ancora sperare di infilarsi nelle prime posizioni, almeno transitorie. Sì, a me piacciono molto le situazioni in cui la classifica generale viene così stravolta e si trovano a come dire, uno dopo l'altro o alternati corridori di classifica e altri che sono lì quasi per caso, diciamo così. Poi non è mai per caso quando si lotta per una maglia, ma al futuro guarderemo con più calma più avanti e direi che per aiutarci a scoprire quello che hanno in serbo gli dei del ciclismo o le stelle in questo caso, ha senso ascoltare uno dei nuovi contributi che ai noi ci tocca proporvi in questa edizione di Gironimo. Le stelle si raccontano. L'oroscopo di domani dal genius di Asterio Trefortuna. Per il giro, per la tappa, per la vita. Ariete. Allora, te l'ho già detto la volta scorsa, sta arrivando l'estate, poi ti lamenti. Toro, ancora sta cosa del Commodore 64, la metafora era chiara, capito? Andiamo oltre, capito? Oltre, basta, aggiornati. Gemelli, allora, le stelle ti dovevano vedere, ti hanno visto, ma poi non ti hanno visto più e si domandavano, le stelle, dove sta Gemelli? Cancro. Allora, Cancro, la situazione che devi scegliere domani per la gara è la seguente. La tattica è... sorpassa. Leone. Dunque, Leone, tu saresti uno dei miei segni preferiti, no? Leone, il re della foresta, ma questo ruggito, metaforicamente parlando, non si sente. Ruggisci. Vergine. Pasquale non è affidabile. Vergine, Pasquale non è affidabile. Non ascoltare a Pasquale. Bilancia. Oggi è l'ultimo giorno di Zumba. Hai capito? Bilancia. Scorpione. Scorpione, nell'arco della giornata di domani tu incontrerai una signora con i capelli biondi tagliati corti, lei con una giacchetta blu. Tu non salutarla. Tu vai dritto, fai finta che non l'hai vista sta signora. Hai capito? Questa vuole sapere indicazioni per arrivare alla posta più vicina. Vai dritto, Scorpione. Sagittario. Oggi sereno, venti moderati, precipitazioni moderate. Capricorno, nella lasagna, se sei in dubbio, metticene un poco di più di formaggio. Hai capito? Un po' di più formaggio non fa male a nessuno. Acquario, allora, parliamoci chiari, io e te. Io te l'avevo già detto. La bici la dovevi acquistare con il cambio. E mo c'hai l'acido lattico. Pesci, t'ho già visto che hai fatto altre liste. Mo, tu le liste, sempre ste liste, non le segui. Cosa te ne fai a fare ste liste? Perdi un sacco di tempo a fare liste, basta! Le stelle consigliano. Il cuore è altrui. È dentro il nostro cuore. Ecco, non so se seguirà, se il Giro d'Italia seguirà esattamente le previsioni, vogliamo chiamare, non sono tanto previsioni, sono più a parte quelle meteorologiche. Quelle sono proprio previsioni. Quelle sono previsioni, però non dice su dove. Per sono il segno, più... valgono per quel segno. Ovunque si trovi una persona nata sotto quel segno. Sono più così cosa intendi dire? Buffonate, no, potremmo definirle. Ma no, ma ci vuole rispetto per Asterio Trefortuna. Io non credo a quello che racconta per un semplice motivo che mi riguarda. Io sono del segno dell'acquario, però la previsione in cui mi riconosco di più è quella dei pesci, che è quella sulle liste. Perché a me capita di fare liste su liste, per esempio quando registriamo, prima di registrare il nostro podcast, ho due o tre liste aperte sul computer e mi perdo spesso e volentieri, come sta accadendo in questo specifico momento, e quindi mi sento più vicino al segno dei pesci che dell'acquario, che in realtà sarebbe il mio. Per un attimo ero convinto che dicessi di sentirti più vicino a quello della zumba. No. Perché forse è ora che la smetti con la zumba, ma Leonardo, che vai... è anche giunto questo momento. Ma no. Ma sì, dai, ha rotto questa tua passione. Ma non la vai, ma non ce l'ho, ma è proprio, ho tante passioni anche criticabili, ma questa qui proprio non fa parte del novero. Ma direi... Ad ogni modo, date indicazioni alle persone che cercano l'ufficio postale, quale che sia il vostro segno, e se siete il leone, ruggite, ruggite, ruggite. Se vi va, torniamo terra a terra. Leo, tappa di oggi, cosa abbiamo visto lungo le strade lucane prima e campane poi? Beh, siamo partiti dalla bellissima Venosa, dove abbiamo incontrato due corridori che in modo molto diverso però possono essere considerati, come si dice in francese, enfants du pays. Sì, infanti del paese. Infanti, infanti del paese. Paese è molto largo, è molto vasto. Che però era la tappa del giorno precedente, ma non facciamo casino. Che è la Basilicata, e nello specifico la regione, la parte della Basilicata chiamate Dolomiti Lucane, dove c'è un posto che si chiama Marsico Vetere, che è il posto a cui sono legati due corridori di questo Giro d'Italia. Uno è Nico Denz, corridore della Bora, tedesco, al suo sesto Giro d'Italia, il giro alla sua corsa preferita insieme alle Fiandre e alla Roubaix. E forse ricorderete che l'anno scorso, durante la tappa lucana, a un certo punto si fermò a bordo strada perché a bordo strada c'erano due persone che sono i suoi nonni materni. Il suo nonno, che si chiama Giovanni, e sua nonna, che si chiama Anne Ruth. E Giovanni è originario di proprio Marsico Vetere, mentre Anne è tedesca. E sono due migranti di ritorno, perché loro nei primi anni 2000 sono tornati dalla Germania, dove si erano trasferiti, a Marsico Vetere, in Basilicata. E quegli anni, i primi anni 2000, erano gli anni in cui Nico Denz cominciava ad andare in bicicletta. Lui per alcune estati è stato a Marsico Vetere, ha pedalato lungo quelle strade, e l'anno scorso, durante il giro, reincontrò i suoi nonni per la prima volta dopo gli anni della pandemia. Quest'anno, giro 2023, il nonno e la nonna di Nico Denz sono venuti a Venosa questa mattina per incontrarlo all'avvio della tappa. Nico Denz, quando li ha visti, sapeva che c'era, non era una sorpresa, ha scavalcato con bici al seguito le transenne che separano l'area del podio dove i corridori firmano prima della partenza dalla zona dove ci sono gli spettatori, e ha passato più di 30 minuti col nonno e la nonna. Noi eravamo lì, e quindi adesso... È una specie di reality show lucano, quindi, quello che sta per andare in onda. Secondo me a Leknessund piace questo reality show, e vi proponiamo questo contributo, questo collage di audio tratti da questo bel momento che abbiamo vissuto questa mattina. Veloce, andiamo a prendere sto caffè al volo e poi lo vengo solo io. Ma dobbiamo uscire, no? Qua dentro. Allora, Giovanni, cognome? Campese. Che non è il cognome di Nico, perché lui è figlio della... Della figlia, sì. Della figlia. E... Lei è pensionato adesso, che cosa fa nella vita? Ti sembro così giovane? Sembra giovane, no? Un'apparenza molto fresca. Grazie, perché sì, sono pensionato. Sì. Che cosa ha preso Nico da voi? Che qualità o che difetto? Beh, questo non lo so dire, perché non è che ci abbiamo proprio quella che siamo stati sempre così tanto assieme, però per la conoscenza, difetti di lui non ne posso dire neanche uno. È un bravo ragazzo. Forse la pazienza ha preso di noi. La pazienza. Ma lei è stato sempre appassionato di ciclismo, o quando lui ha cominciato? Quando ha cominciato lui. Ma no, poi c'era l'altro mio figlio che era appassionato di ciclismo, di calcio, di quello. Allora ci siamo sempre guardati, Giro d'Italia, Tour de France, tutte queste cose qua. Ci ha fatto molto piacere. Poi quando ha cominciato lui, adesso non smettiamo più e guardiamo tutto quello. Adesso guardate tutte le corse dove c'è Nico, o in generale? In generale tutto. Tutto il ciclismo. Sì, perché ci fa piacere, perché, ma io penso che questi giovani che fanno questo lavoro non è tanto semplice. Assolutamente. È abbastanza duro. Chi è il suo preferito, a parte Nico, in questo giro, o il favorito per vincere il giro? Il favorito per vincere? Beh, c'è uno della Basilicata, però non può vincere quest'anno. Alessandro Verre. Alessandro Verre. C'è anche Domenico Pozzovivo. C'è Domenico Pozzovivo, però Alessandro Verre viene dalla nostra zona, proprio da Marsico Vetere. Ma quante estati lui è venuto a Marsico Vetere da voi? Parecchie, anche quando era piccola, e dopo quando han cominciato a correre non abbiamo quasi visto pochissimo, perché lui era in giro dappertutto. A lui piace proprio la cucina, eppure il nonno ha cucinato, lui è più bravo. Ma mi racconti un po' la storia, lei come si chiama? Come? Lei come si chiama? Ruth Anna. E viene da? Germania. Quindi voi vi siete conosciuti in Germania? Sì, in Germania, e sì, e dopo sì. E abbiamo lavorato in Svizzera. È così. Poi è nato lui? Lui è nato a Valzut, è proprio vicino alla Svizzera, è dove sono i papà, mamma e papà di Nico. Lei è la mamma della mamma di Nico? Sì, sì, sono, sì, sì, sì. E poi voi vi siete trasferiti a Marsico Vetere? Sì, sì, perché mio marito Giovanni è di Marsico Vetere. Ma quando Nico era piccolo, in che lingua parlava? In tedesco? Sì, in tedesco, inglese, francese. Non gliel'avete mai insegnato l'italiano? Noi siamo stati 30 anni in Svizzera. Sì, eravamo parecchio. Quando siamo venuti in ferie, anche con Nico, e noi abbiamo nostra casa a Marsico Vetere, là. Siamo andati, è venuto lui con il fratello, con i bici, e lui, il sogno di Nico andare a fare il giro. Ma lei le piace adesso la Basilicata? Sì, è una regione bellissima, bellissima o bellissima? Bellissima, bellissima. Bellissima. Non è convinto, signor Giovanni? Sì, sì, sì. No, no, veramente, vedi, proprio bello. No. Nico, how do you call them? Do you have a nickname and do they have a nickname for you? Uma and Opa. E voi come lo chiamate? Lui? Nico. Nico, e basta. Non c'è un soprannome? No. Forse perché tramite la lingua, perché in tedesco è difficile di mettere il soprannome. Invece da noi in Italia le chiamiamo sempre con tutti questi nomi. Invece però in Germania lo chiamiamo Nico. What do you miss most of them when you are not with them or close to Italy? Yeah, just spending the time with them. It's so far away, and every minute we get together is really precious. So yeah. Do you get Scamorza in Germany? Every time they come, they bring, or sometimes we send. So yes, I get. È che correva come un matto. Ecco, quello faceva. In discesa era sempre più veloce. Io dico qualche parte che apriva qualche ginocchio. Però non ci ha fatto niente. Vi faceva spaventare, avere paura. Un pochettino sì. He says that you scared them when you were a child and you were going with your bicycle around Marsico Vetere. Oh, that is highly possible. As a 15, 16, whatever years old boy, you don't feel the risk, you just go. And you feel the risk now or less? Yeah, now I have two kids. I still feel the risk. I still take the risk, but it's different. It's my job now. Did you bring them to Basilicata, your kids, already or not? No, but maybe we come this summer, depending on my race schedule, we'll come and visit. Yeah, my son is now 1.5 and my daughter 2.5, so no time yet to do. What are their names? Charlotta and Remo. Thank you very much, Nico, and good luck for today. Thank you. Giovanni, grazie. Signora, grazie. Siete una bellissima coppia, una bella ciao. Coppia. Ciao, grazie. Grazie per la vostra disponibilità. Allora, abbiamo preferito tenere insieme tutti i vari contributi. Alcune le risposte di Nico Denz erano in inglese, perché lui non parla italiano, mentre ho parlato in italiano con i nonni, perché io non parlo tedesco, quindi abbiamo dovuto fare un po' di traduzioni simultanee. Vi traduco adesso le risposte di Nico in inglese. A un certo punto la prima domanda che gli ho fatto in realtà è stata se c'è un nickname, se c'è un soprannome con cui lui chiama i nonni, oppure come loro chiamano lui, e Nico ha detto che lui chiama i suoi nonni Oma e Opa. Come il famoso cartello, quasi. Quasi come quel cartello tristemente famoso al Tour de France di qualche anno fa, mentre i nonni lo chiamano Nico e basta, non ha soprannome. E non hanno fatto un cartello, però. No, c'è un cartello Nico e basta, magari lo vedremo nel prosieguo del giro. Poi ho chiesto a Nico cosa gli manca di più dei nonni quando non è con loro. E lui ha detto semplicemente il tempo passato insieme, perché siamo molto lontani e ogni minuto insieme è prezioso. E dopo che ho scoperto che il suo cibo preferito è la scamorza, gli ho chiesto se riesce ad averla quando non è in Italia, quando è in Germania di solito a casa sua. E lui ha detto sì, in realtà, perché ogni volta che vengono i miei parenti me la portano e quando non possono venire me la spediscono, quindi sì, riesce ad avere la scamorza anche in Germania. E poi gli ho riferito in inglese che suo nonno mi aveva appena detto in italiano che qualche volta da piccolo, da ragazzo, lui li faceva spaventare perché andava in bici, in discesa soprattutto, molto veloce, qualche volta si è sbucciato un ginocchio e si prendeva dei rischi. E Nico ha risposto, certo, quando hai 13-14 anni è impossibile non farlo, non hai idea di cos'è il rischio. E a quel punto gli ho chiesto se invece adesso lui lo percepisce di più, il pericolo. E Nico ha risposto, beh, adesso ho due figli, e i rischi li prendo ancora, però è diverso, faccio il mio lavoro. Gli ho chiesto infine se avesse già portato questi suoi due figli in Basilicata a far visitare loro la terra dei nonni materni, e Nico ha detto di no, non ancora, ma forse quest'estate verranno, certo dipende dal calendario delle sue corse, però forse verranno. Suo figlio ha 1 anno e mezzo, mentre sua figlia ha 2 anni e mezzo, non hanno avuto finora tempo di viaggiare molto, e si chiamano, l'ultima cosa che mi ha detto, Charlotte e Remo. E allora quest'estate andremo tutti a Marsico Vetere, ma prima di proiettarci ulteriormente in Marsico Vetere facciamo un passettino indietro a Barile, dove eravamo ieri sera, perché ci tocca fare un enorme ringraziamento per questa intervista. Perché questo incontro di questa mattina a Venosa è stato reso possibile da Antonio Coronato, che è un giornalista, lui è un giornalista. È un giornalista, non lo definirei un collega. Esatto, lui è un bravo giornalista. Noi non lo siamo. Esatto, della testata giornalistica regionale lucana della Basilicata, che abbiamo incontrato nella pizzeria di Barile dove eravamo a cena, ed è venuto fuori che stavano organizzando per la TV questo incontro tra i nonni di Dance e Nico Dance, e ci ha cortesemente invitati a essere parte, anche noi testimoni di questo incontro. Anche perché ci teneva particolarmente, visto che ti ha fermato lui riconoscendoti in qualità di Leonardo Piccione non appena sei entrato in pizzeria. Questo è un altro grande classico del Giro d'Italia, incontrare i parenti di Leonardo Piccione e i fan di Leonardo Piccione. Ieri in questa pizzeria c'erano entrambi. Un incredibile crossover delle caratteristiche del Giro d'Italia. Sì, quindi grazie ad Antonio Coronato e poi ai nonni Anne e Giovanni Campese. Ho pensato, quando ho sentito il nome del nonno di Nico Dance, che se fosse stato il nonno paterno anziché quello materno, oggi Nico Dance magari si chiamerebbe Nicola Campese. E non so se sarebbe meglio o peggio. Ma, per esempio, forse peggio, perché noi conosciamo Nico Dance andandogli a fare la domanda sulla musica dance, ad esempio, per cui... Bello, molto interessante. È come quando il famoso Walter Van Arto prese vita. Ma torniamo a Marsico Vetere un attimo. Chi è Walter Van Arto? Dopo te lo spiego, dopo te lo spiego. Ah, no, adesso l'hai detto al podcast, devi spiegarlo anche ai nostri ascoltatori. Appunto, è Wout Van Aert, ma in italiano. Ah, ok. sì, siamo più o meno siamo da quelle parti. Preferisco Aureliano Pittore Murale. Comunque. Torniamo a Marsico Vetere, perché invece io preferisco Alessandro Verre, l'altro infante del paese che abbiamo incontrato quest'oggi. Aveva un sacco di tifosi che gli facevano i cori, la ola, si è affacciato all'autobus con un ola che lo ha accolto, e noi non potevamo non andare a chiacchierarci, vista anche la nostra predilezione per i ciclisti lucani. E sentite cosa ci ha detto quest'oggi Alessandro Verre. Ciao Alessandro, buongiorno. Come vai? La giornata con più tifosi nella tua storia ciclistica, probabilmente. Penso di sì, già ora... È iniziata bene, speriamo di finire altrettanto. Sì, un po' tutti, anche già nelle tappe di Abruzzo, cioè, i tifosi si sono fatti sentire. Grazie a tutti, vorrei dire grazie a tutti per il loro calore dimostrato. Ecco. Ma stai andando fortissimo, te l'aspettavi di partire così forte? Ma fortissimo, diciamo forse sì, forse no. Comunque il giro è iniziato in un certo senso da due giorni perché la crono era un po' per sbloccarsi, ecco. Però nulla, il giro è una corsa di 3 settimane, diversa da tutte le altre corse, quindi vedremo strada facendo. Senti, io non so niente di Marsico Vetere, non so i nostri ascoltatori, per cui ti chiedo, dici tu qualcosa di Marsico Vetere? Ah, è un po' il paese dove sono nato, dove continuo a vivere tuttora e dove mi alleno. Questo è un paese dove, diciamo, si trova a 1000 metri di altitudine, anche se io vivo in realtà nella frazione di Villa d'Agri, però alla fine Marsico Vetere è il paese dove un po' trascorro gran parte del mio tempo in bici, siccome c'è appunto questa salita, il Monte Volturino, che è lunga circa 20 km ed è lì che sono cresciuto ciclisticamente. Io non so se sia vero, magari me lo confermi tu, sto leggendo Wikipedia Marsico Vetere, come si chiamava anticamente la frazione Villa d'Agri? Pedalini. E pedalini è come tuttora... Siamo noi che siamo di Villa d'Agri. Ma quindi cioè, era scritto nella storia che tu dovessi fare il ciclista? Magari sì, ecco, forse. Hai altri ciclisti in famiglia? No, sono l'unico. E come sei arrivata alla bicicletta? Ah, per gioco, un po' come tutti, per gioco. C'era questa squadra al mio paese, ho iniziato così giocando, perché non sapevo cosa fare in estate, quindi ho detto ma proviamo. Questo è successo circa 10 anni fa, quindi all'età di 11 anni. È ancora un gioco anche al Giro d'Italia? Un divertimento sì. Infatti alla fine vado in bici per divertirmi, non lo vedo come un lavoro. Da qui in avanti dove lo vediamo Alessandro Verre? In questo giro e anche, visto che sei molto giovane, dove ti seguiamo nei prossimi anni? Hai anche già scelto di andare a correre all'estero, hai già fatto una scelta ambiziosa e insomma che guardi a orizzonti ampi. Questo sì, però durante il giro è difficile da dire perché, come già detto prima, è una corsa di 3 settimane, quindi è molto difficile da dire. Quello che per ora mi sono prefissato è un po' soprattutto quello di fare esperienza il più possibile. Infatti non per nulla, almeno in questi giorni, ho cercato di stare un po', di correre un po' sull'altro Lucano, Domenico Pozzovivo, perché lui ha davvero molta esperienza e credo che da lui posso imparare molto. Vi state anche confrontando a parole, vi state sì, frequentando. Sì, sì. Esatto, anche perché, come già detto in qualche altra intervista, ci siamo conosciuti per la prima volta lo scorso anno durante il Trofeo La Eguaglia. Nonostante stiamo a 50... cioè, i nostri paesi distano solamente a 50 km, quindi... è stato un po' strano conoscersi in corsa a migliaia di chilometri da casa. E come ti sei presentato in corsa a Domenico? Ah, a dire il vero è stato lui che è venuto vicino a me e mi fa «Ehi, giovane!» e poi ci sono un po' rimasto e l'ho salutato. Grazie mille e in bocca al lupo. Grazie a voi e viva il lupo. Bellissimo il contributo di Verre, bellissimo il nome Marsico Vetere. Siamo passati oggi da un altro posto con un nome secondo me splendido, che è proprio mega, è super, è San Potito Ultra. Sì, nomi bellissimi in queste tappe, citazioni di Pozzovivo a più non posso perché ormai è la caratteristica assoluta del nostro podcast. Siamo passati in tanti luoghi, siamo arrivati alla Gola Ceno, passando verso la Gola Ceno siamo passati da Bagnoli Irpino, dove ora siamo di nuovo perché siamo ritornati a Bagnoli Irpino. Prima o poi una puntata in furgone dovevamo registrarla, ce l'abbiamo già fatta al quarto giorno, bravissimi. A Bagnoli Irpino, terra dei tartufi, non abbiamo potuto che farci dare qualche dritta sul tartufo locale. Sì, è un tartufo nero, il nome in latino è Tuber mesentericum vit, un tartufo che assieme a quello bianco di Albe e al nero di Norcia è un tartufo che ha un'attribuzione territoriale, proprio il tartufo nero di Bagnoli Irpino. Siamo col signor Salvatore Lenzi. Dove? Sono titolare della Lenzi Tartufi a Bagnoli Irpino. Dove sta per passare la caravana, il Giro d'Italia? Sta passando la caravana, il Giro d'Italia, e siamo tutti ansiosi di aspettare il grande evento. Chi è il vostro preferito qui? Io lo so già perché so. Pozzo Vivo. È venuto qui. È un amico. Sì, sì, è un mio amico. Davvero? Spesso viene qui alla Sagra della Castagna e del Tartufo. Viene spesso, è una persona veramente molto, molto semplice e buona. Qual è il suo piatto preferito di Pozzo Vivo? Cioè, quando viene qua, che cosa ordina? Questo non lo so. So che gli piace il tartufo nero di Bagnoli, sicuramente. Grazie mille. Grazie mille. Chissà nella puntata di domani quante citazioni riusciremo a fare di Domenico Pozzo Vivo, facendole fare anche a tutti i nostri intervistati, perché anche a Bagnoli Irpino si cita, si apprezza, si conosce Domenico Pozzo Vivo. Ma io direi anche nella vita reale, nelle vostre conversazioni di ogni giorno, citate ogni tanto Domenico Pozzo Vivo, perché sì, è bello, porta ma anche bene. Come intercalare. Come ti senti oggi? Pozzo Vivo. Sì, qualcosa del genere. Secondo me sì. Grande Mimmo, ma andiamo avanti perché abbiamo ancora qualcosa. Abbiamo tutto quello che ci aspetta domani, nello specifico la tappa del Giro d'Italia, che di solito prende le nostre giornate. Si parte e si arriva in Campania, da Atripalda a Salerno, e ci siamo fatti raccontare la tappa di domani da un corridore che è nato in uno dei posti attraversati dalla quinta tappa del Giro. Stiamo parlando di Vincenzo Albanese. Posso dire che vabbè, è una regione particolare, molto affascinante, un po' sembra di essere magari in Texas, mi viene in mente, o in Colorado, e da mangiare ci sono tante cose, come del resto in tutta Italia. Quindi ci sarà il GPM a casa mia, dove sono nato, Oliveto Citra, e poi vabbè tutto il lungomare che porta a Salerno, che è una delle mie città preferite. Cosa ti piace di Salerno nello specifico? Salerno è bello il lungomare, le luminarie che ci sono a dicembre, e poi la gente, la costiera, il mare, tutto. Invece Oliveto Citra è famosa per qualcosa nello specifico? No. A parte te? Sì, a parte io, ma comunque... penso di no. E quindi non solo Campania, ma anche a quanto pare spunti che ci portano al Texas e al Colorado, secondo Vincenzo Albanese. Domani curioso di attraversare questi luoghi, ma dal punto di vista invece ciclistico e dell'altimetria, come sarà questa tappa di domani? Vedo tanti dentellini sull'altimetria. È così, perché sarà una tappa mossa da Atripalda a Salerno, interamente Campania, la prima di un distico interamente campano. Passo Serra, GPM di terza categoria, molto presto, solo dopo 11 km. Il secondo GPM è appunto Oliveto Citra. Prima di un arrivo, invece, gli ultimi 40 km circa sono pressoché tutti piatti, se non in discesa, verso il lungomare di Salerno. Insomma, probabilmente una fuga potrebbe andare via, certo, ma un qualche tipo di ruota veloce potrebbe avere la meglio domani. Qualche tipo? Che tipo? Nello specifico pronostico con un nome o due, se proprio vuoi. Certo, sarebbe molto romantico, molto bello Vincenzo Albanese. Probabilmente Mads Pedersen è uno dei più quotati, ecco. Ah, Mads Pedersen hai detto. Pensa che volevo dirlo anch'io, ma c'è un motivo per cui voglio dirlo. Perché al primo giorno ho detto che avrebbero fatto 0-0 Pedersen e Matthews, vero, per cui quel sì. Pronostico l'ho sbagliato. Ho sbagliato quello sulla vittoria di Matthews. A questo punto, per risbagliare quel mio primo pronostico, provo ad azzeccare questo e dico anch'io Mads Pedersen. Ci sta, quindi entrambi credete all'arrivo di una volata di gruppo, insomma, come finale di tappa. Io invece, per andare controcorrente, dico che domani va di nuovo via una fuga, però una fuga più numerosa e con più minuti. Perché, come dicevamo prima, adesso la classifica nei primi posti è ancora molto molto ravvicinata. Domani, secondo me, va via una fuga con più minuti e cambia la maglia rosa di nuovo. E il mio pronostico, un po' avventato, è tappa in maglia a Simone Velasco. Bello, bellissimo. E allora, vedremo domani se saremo stati bravi a sbagliare i pronostici ancora una volta. Domani non saremo, nemmeno domani, sulle automobili del servizio corse dell'assistenza tecnica neutrale di Shimano, ma li salutiamo ancora una volta e torneremo a farvi ascoltare le loro voci. Adesso queste giornate sono un po' complicate anche dal punto di vista tecnico nostro, di spostamenti e tutto quanto, ma non abbiamo nemmeno dormito con loro ieri. Adesso, quando finalmente riusciremo a raggiungere l'albergo questa sera, ci rinfileremo nella carovana Shimano. Però, per non farci mancare niente, abbiamo voluto comunque dare una spolverata di Giappone a questa, a questa puntata. Sì, sì, assolutamente. Volevamo anche tenercelo in fondo per chiudere con una nota di grande ottimismo e positività, perché stiamo parlando dell'incontro fatto con Yukiya Arashiro, 38 anni, gregario e tuttofare della Bahrain Victorious, uno dei corridori che mettono più allegria e serenità in tutto il gruppo. L'abbiamo incontrato e ascoltiamo la prima parte di questa conversazione con lui. Ciao Yukiya, how are you? Yeah, good, I'm good, thank you. You? Very good, thank you. But you were not supposed to come to Giro. You came instead of Gino. Yes. How did it happen? They called you at the last minute, you got a phone call. How it happened? Yeah, yeah, my coach is day before the presentation, 7 p.m. I was in the sofa, front of the TV, relaxed. Then my phone's ring. Then coach is okay, tomorrow afternoon 12 you come to the Giro. Oh, what happened? No, my, just you come, you know, just one information. Yeah. And then you took a plane? How did it happen? Next day in the 12 take the from Andorra to Barcelona and Barcelona to Rome. E allora, dopo i saluti convenevoli, ho ricordato a Yukiya, anche se sono sicuro già se lo ricordasse da solo, che è arrivato a questo Giro d'Italia all'ultimo minuto in sostituzione di Gino Meder, e gli ho chiesto di raccontarmi come è successo, com'è andata. E dunque, il giorno prima della presentazione delle squadre, quindi mercoledì alle 7 di sera, dice Arashiro, ero sul divano davanti alla TV a rilassarmi, quando il mio telefono ha fatto drin, l'ha detto proprio lui, così come avete ascoltato. Era il fisso. Forse è ancora il fisso a casa Arashiro. E il mio allenatore mi ha detto, ok, domani a mezzogiorno vieni al Giro. E io mi sono detto, oh, ma che è successo? Avete notato che è molto, molto onomatopeico Yukiya Arashiro mentre racconta. E al che il suo allenatore gli ha risposto, vieni e basta. Solo questa informazione mi ha dato. Io a quel punto ho chiesto, hai preso un aereo, com'è andata dopo? E Arashiro ha risposto sì, il giorno dopo, alle 12, sono andato da Andorra a Barcellona e poi da Barcellona a Roma. I arrived in the hotel at midnight, next day I wake up and I follow the team today's plan. I see the, okay, Recon car, but I don't know when I stop. How many K today start, the TT? Well, okay, 19, okay, around 20. So I didn't check not all stage, I check just only 1 week now, so day by day. E qui continua il racconto dell'arrivo al Giro. Sono arrivato in hotel a mezzanotte, il giorno dopo mi sono svegliato, mi sono unito alla squadra e non sapevo niente. Ho chiesto di quanti chilometri fosse lunga la crono, ok, 19, 20. Però non ho ancora guardato bene tutte le tappe, solo quelle della prima settimana. Vado avanti giorno per giorno. This is your Grand Tour number 16, right? Exactly. Okay, what's your favorite, Giro, Tour or Vuelta? Oh, every Grand Tour different face, no? So Giro is Giro's color, Tour is a Tour. But I like Grand Tour races. Even Tour, Vuelta, Giro, I like all Grand Tour. And you have finished all of them. What's your secret? Nothing special, huh? Just you need for the preparation, you need everything for the calculation, the eating, sleeping, yeah, that's all, no? Mm. E ho detto ad Arashiro, è il tuo grande giro numero 16, qual è il tuo preferito tra tutti? E Arashiro ha risposto, ogni grande giro è una corsa diversa, a me piacciono tutti. E gli piacciono così tanto che, come gli ho detto, li ha finiti tutti. Qual è il tuo segreto? Perché Arashiro ha portato a termine tutti e 15 finora i grandi giri, Giro, Tour e Vuelta a cui ha preso parte. E qui Arashiro si è fatto una grande risata, una grassa risata. Una delle tante nel corso di questa breve intervista. Perché secondo lui non c'è niente di speciale, non c'è un segreto, serve solo la preparazione giusta, fare i giusti calcoli, ha detto lui. L'alimentazione, il sonno e basta, questo è tutto. Detto niente. Ma sul sonno soprattutto mi ci ritrovo. E infine una domanda, l'ultima, doverosa sulla sua bicicletta, perché è una bicicletta diversa da quella dei suoi compagni, di colore diverso perché lui è campione nazionale giapponese e soprattutto ha degli adesivi, uno con un cane e uno con una scritta, qualcosa scritto in giapponese. Can you help us? What's on your bike? There is a dog and then something in Japanese. Can you help us understand? Yeah, because I am a national champion, so this is my dog. Okay. Yeah. Then this is Ike Yukiya Ike in Japanese, and in English, Go Yukiya Go. Go Yukiya Go. Yeah. Okay, and what's the name of your dog? Colleen. Colleen. Where is she now? Now in Andorra. In Andorra. Yeah, this is my, this is, you know, when come to Giro, this is a little bit of scary point, because if a pet hotel don't take the, my dogs, okay, I cannot come here. I must bring a bus, huh? Yeah. So now, yeah, surprise, maybe my dog also in the surprise. Oh, why now here? So. Grazie mille, arigato. Arigato. Thank you. Ciao. Quindi la mia domanda era, puoi aiutarci a capire cosa c'è con questo cane, questi ideogrammi? E lui ha risposto, beh, intanto sono il campione nazionale giapponese, quello è il motivo per la bandierina che c'è. E lei invece... E anche, scusami, per la maglia più bella del gruppo, che bellissima, è indossa, magnifica. Davvero bella. Lei è il mio cane, che abbiamo capito è una lei, e invece la scritta è, provo a ripetere, Ike Yuki Ike, che vuol dire in inglese Go Yukiya Go. O in italiano Dai Yukiya Dai. Esatto. In francese sarebbe Ale Yukiya Ale. credo di sì. Solo la spagnola forse, che è Venga Yukiya Venga. Mi sa che sarebbe Dale Yukiya Dale. Va bene, su questo però, vi lascio. Chiederemo ai nostri ascoltatori. Mentre il cane, torniamo un attimo al cagnolina di Yukiya Arashiro, che si chiama Colleen. E adesso si trova ad Andorra in questo momento, e questa situazione qua è un po' un problema, dice lui, quando vengo al giro, in generale ai grandi giri, e un po' mi spaventa, mi preoccupa, perché se in quel momento, quando io parto, il pet hotel non può tenere, ospitare il mio cane, allora io non posso andare al grande giro e la dovrei portare con me sul bus. E forse in questo caso sarebbe sorpresa anche lei e si chiederebbe, perché sono qui? Questa è la... Che poi è un po' quello che si è chiesto a Arashiro quando è arrivato al Giro d'Italia, chiamato 24 ore prima. Ad ogni modo, impegniamoci, facciamo un appello, divulghiamo l'invito a tutti i corridori che ci ascoltano per avere sempre più spesso gli animali domestici dei corridori alle corse. Assolutamente. Che li seguono, soprattutto anche nelle corse a tappe. E se vogliamo estendere questo invito e farlo diventare un invito a essere il più spesso, se possibile, felici come lo è Yukiya Arashiro quando lo si incontra. Ma sì, sicuramente è stata una boccata di allegria incontrare Arashiro per questa intervista. A proposito di boccata, a proposito di bocca, sì, parli di cena. Cosa ne dite di metterla al lavoro non sul parlare ma sul masticare? Sarà dura, stasera ancora... sarà molto dura, esatto, riuscire ad arrivare in tempo per cena, ma qualcosa qualcosa ce la papperemo. Poi in ogni ancora... caso, no, io volevo dire, sì, scusami, perché poi abbiamo anche una lunga strada per arrivare in albergo, non abbiamo restato in albergo oggi, ma c'è sempre una campagna per invitare i nostri ascoltatori a portarci delle cornucopie possibilmente piene di cibi gradevoli e alcol, che noi saremo all'hotel Giordano Bruno di Nola, alle stanze 113 e 207. Ah, anche i numeri delle stanze adesso. Va bene. Andiamoci a vedere. Tanto per tre notti, per cui avete tempo per allestire la cornucopia. Andiamoci a vedere la prima serata dell'Eurovision Song Contest o la Champions League, dipende dai gusti, e vi diamo appuntamento alla sesta, settima, ottava, quinta, non lo so, puntata di Gironimo, che andrà in onda domani a un orario indefinito. Grazie e alla prossima. Ciao.